24, i gialli della storia. Oggi a Mix 24 raccontiamo la storia di Auschwitz, la macchina della morte costruita dai tedeschi che in 4 anni d'attività ha ucciso più di 1.100.000 persone. Di Auschwitz pensavamo di sapere tutto, invece no. La BBC in un documentario ha raccolto documenti inediti e testimoni che per la prima volta hanno accettato di essere intervistati. E così è stato possibile ricostruire la genesi di quella fabbrica della morte, il lento perfezionamento della macchina dello sterminio nazista, la corruzione dell'SS, l'amore tra i prigionieri. Un racconto basato sui documenti e i progetti, venuti alla luce dopo l'apertura degli archivi dell'Europa dell'Est e grazie alle interviste a persone che ad Auschwitz ci sono state, compresi ex appartenenti all'SS. Tutto comincia nella primavera del 40. Il capitano delle SS Rudolf Höss attraversa la Polonia per assumere il comando di un nuovo campo di concentramento nazista. Höss è diretto nei pressi della cittadina di Auschwitz, nel cuore del territorio che Hitler ha conquistato l'anno precedente con l'invasione della Polonia. È qui che Höss deve creare un campo di concentramento. È la prima struttura di Auschwitz, nota successivamente come Stammlager o Auschwitz 1. Ma quando Höss vi arriva nell'aprile del 1940, sono solo pochi edifici. Quello che sarà il più tristemente noto campo di concentramento è nato come una struttura dell'esercito polacco. Un gruppetto di cadenti baracche intorno ad un ampio recinto per i cavalli. Non è stato facile. Dovevo creare nel più breve tempo possibile un campo per 10.000 detenuti. Usando le costruzioni esistenti, che pur essendo ben costruite, versavano in uno stato di completo abbandono ed erano infestate dai parassiti. Il primo lager non è destinato a ospitare gli ebrei che vengono confinati nei ghetti, bensì i prigionieri politici polacchi e chiunque rappresenti, agli occhi dei nazisti, una minaccia da eliminare. Höss, che lavora nei campi di concentramento dal 1934, sa che il suo compito è creare un posto che semini il terrore tra i polacchi. I detenuti polacchi che arrivano nel nuovo campo sono sottoposti a un trattamento durissimo da parte delle SS. Nei primi 12 mesi, più della metà dei 23.000 polacchi mandati ad Auschwitz muore. Ad Auschwitz regna un clima violento e brutale. Ma il campo non riveste ancora un ruolo di primo piano nella strategia tedesca, tanto che nei primi tempi Höss è costretto a elemosinare le materie prime più essenziali. Visto che non potevo aspettarmi alcun aiuto dall'ispettorato dei campi di concentramento, mi sono dovuto arrangiare da solo. Sono arrivato a fare anche 100 chilometri fino a Zakopane e a Rabka per rimediare delle pentole e delle padelle. Non avevo idea dove trovare 100 metri di filo spinato, che era assolutamente necessario. E così non mi è rimasto che andarla a rubare. Dopo una giornata passata a rubare materie prime, Höss torna nella sua casa ai margini del campo di concentramento, dove conduce quella che ritiene debba essere la vita del conquistatore nazista, che tratta gli internati alla stregua di servi. Se Höss vive nel lusso, gli internati devono lottare per sopravvivere. Nel 1940, a sovrintendere agli orrori della vita del campo di Auschwitz, ci sono Höss e circa 300 SS. Per favorire uno spirito di solidarietà e collaborazione, vengono organizzate serate conviviali con le famiglie. Ma, spiega Höss, è solo una messa in scena. Palic, il caporapporto, era la persona più scaltra e ipocrita che abbia conosciuto nella mia lunga e variegata esperienza nei diversi campi di concentramento. Ha letteralmente camminato su cadaveri e cadaveri di persone solo per saziare la sua fame di potere. Fritsch, primo ufficiale del campo, era ottuso, testardo e rissoso, anche se fuori servizio cercava di passare per uno che amava la compagnia e parlava sempre di cameratismo. In realtà, il suo atteggiamento tutto era meno che cameratesco. Le memorie di Höss svelano un uomo duro di cuore, meschino, sempre pronto a scaricare sugli altri la responsabilità dei propri errori. Per sua stessa ammissione, fin dall'inizio Auschwitz è un campo di concentramento dove vengono usati metodi di estrema brutalità. Ciò nonostante, nel corso del 1940, il campo da lui comandato è per quanto possibile un'isola tranquilla nella Polonia occupata dai nazisti. Il motivo principale della trasformazione del lager di Auschwitz è semplice: la sua posizione geografica. La zona intorno al campo offre risorse naturali in abbondanza. Questa parte della Polonia è ricca di acqua, calce e, cosa più importante, carbone. Marzo 1941. Heinrich Himmler, comandante delle SS, si reca per la prima volta in visita ad Auschwitz. Ha saputo che la IG Farben, con le sue enormi risorse economiche, è interessata a operare in quella zona. Ad accompagnare Himmler nel suo giro di ispezione, Höss, il Gauleiter tedesco della regione, e altri alti ufficiali delle SS. Himmler ordina di triplicare la capienza di Auschwitz, da 10.000 a 30.000 prigionieri. Il campo non sarà più un'isola relativamente tranquilla. Deve diventare il più grande campo di concentramento del Reich nazista. Ma, come rivela Höss, il Gauleiter della regione non è molto d'accordo con i progetti del Reichsführer Himmler. Il Gauleiter sollevò alcune obiezioni e cercò di bloccare il piano facendo presente il problema irrisolto della bonifica. Ma il Reichsführer non volle sentire ragioni. Nei mesi che seguono vengono preparate decine di progetti grandiosi, se non addirittura megalomani, per la nuova Auschwitz che i nazisti hanno in mente. Il sogno coltivato dai nazisti è utilizzare i soldi portati nella zona dalla IG Farben per finanziare la nuova Auschwitz, ideale modello di insediamento tedesco in Oriente. Il progetto prevede anche una faraonica sede del Partito Nazionalsocialista e numerosi altri edifici di nuova costruzione. Verrà trasformato anche lo stesso campo di concentramento, che si trova a breve distanza, lungo il fiume Sola. Gli internati lavoreranno come schiavi nel vicino stabilimento della IG Farben, che acquisterà le materie prime dalle SS. I piani prevedono anche la costruzione di una nuova gigantesca Kommandantur, la centrale amministrativa delle SS. Himmler ha chiesto addirittura che gli venga riservato un alloggio personale. Auschwitz diventerà la sua seconda casa fuori dalla Germania. L'invasione dell'Unione Sovietica a partire dal giugno del 41 trasforma radicalmente la funzione di Auschwitz. Hitler è ossessionato dall'odio per i comunisti e per la loro patria e il suo sogno è far sfilare le truppe tedesche sulla Piazza Rossa di Mosca entro la fine del 41. Berlino, primavera 1941. Alla base della strategia nazista un'idea di fondo, che l'Unione Sovietica è popolata da esseri umani inferiori. I pianificatori dell'economia nazista studiano come approvvigionare le truppe una volta iniziata l'invasione. Un obiettivo talmente importante da giustificare che, per questo, le popolazioni dei territori occupati vengano ridotte alla fame. Soprattutto una cosa deve essere ben chiara a tutti. Le eccedenze di frumento prodotte... Ogni parola di questa ricostruzione è tratta dai promemoria e dai verbali delle riunioni dei comitati nazisti di pianificazione economica che si sono tenute poco prima dell'aggressione contro l'Unione Sovietica. È necessaria un'adeguata riduzione dei consumi a livello locale. Fame e povertà fanno parte del popolo russo da secoli. Hanno lo stomaco adattabile, quindi bando a farsi pietismi. Noi non abbiamo altra scelta. Possiamo continuare la guerra solo se dal prossimo anno l'intera Wehrmacht verrà sfamata dalla Russia. Già nella fase di pianificazione della campagna di Russia, dunque, i nazisti hanno messo nel conto lo sterminio di migliaia di civili sovietici. L'operazione Barbarossa sarà una guerra di annientamento. Nelle settimane successive all'invasione dell'Unione Sovietica, i tedeschi catturano 3 milioni di prigionieri sovietici. Dopo 9 mesi, 2 milioni sono morti. Anche il campo di Auschwitz entra in gioco nella partita per il fronte di guerra orientale. Qui, a partire dal luglio 1941, i prigionieri sovietici vengono costretti a lavorare in cave di ghiaia. Da dietro uno steccato vicino, un detenuto polacco di Auschwitz, Jerzy Bielecki, ha modo di osservarli. I capo li pestavano senza alcuna pietà. Li prendevano a calci, a bastonate. I prigionieri cadevano a terra, delle scene raccapriccianti. Non avevo mai visto una cosa del genere in vita mia. A un certo punto vidi una SS, un giovane ufficiale che girava intorno alla cava di ghiaia con una pistola in mano. Sadismo allo stato puro, brutti porci, comunisti maledetti, pezzi di merda, insulti di ogni genere. Ogni tanto poi puntava la pistola in basso e sparava. Pam, pam, pam. Con l'avanzata delle truppe del Terzo Reich verso Mosca, non sono soltanto i prigionieri di guerra a subire la crudeltà dei tedeschi, ma anche gli ebrei russi. L'antisemitismo nazista considera la miscela slavi ebrei comunisti particolarmente pericolosa. Hans Friedrich ha fatto parte della prima brigata di fanteria delle SS. Afferma di non ricordare con esattezza a quali operazioni abbia preso parte quell'estate, ma ammette di aver partecipato a eccidi, come quello di Ostrog. Provate a immaginarvi la scena. C'è una fossa e lungo il bordo della fossa sono allineate decine di persone, alle loro spalle, i soldati. Quei soldati eravamo noi e quando era il momento sparavamo e le persone cadevano dentro la fossa. Che cosa pensava o che cosa provava nel momento in cui sparava? Si può dire, si può raccontare? Niente. L'unica cosa che avevo in testa era prendere bene la mira. Nello stesso periodo delle esecuzioni di massa in Unione Sovietica, aumentano anche le eliminazioni dei prigionieri ad Auschwitz. Per la prima volta gli internati di Auschwitz vengono uccisi con i gas, ma non nel modo che renderà questo campo così tristemente famoso. Höss viene avvertito che ad Auschwitz sta per arrivare una delegazione del cosiddetto programma di eutanasia degli adulti. I medici cercano prigionieri che non siano più in grado di lavorare. Le persone destinate alla soppressione per eutanasia vengono condotte in speciali istituti in Germania, come la clinica Sonnenstein, vicino Dresda. Al loro interno è stato messo a punto un nuovo metodo di soppressione che prevede l'uso di un inganno che sarà poi adottato anche ad Auschwitz. Ai disabili, infatti, viene fatto credere che devono fare la doccia. Vengono portati in un locale sul cui soffitto corrono tubature e rubinetterie. Ma i tubi non sono collegati alla rete idrica. Attraverso di essi viene immesso nell'ambiente monossido di carbonio, contenuto in flaconi situati oltre il muro. Una volta chiuso ermeticamente il locale, vengono aperti i rubinetti del monossido di carbonio e i pazienti muoiono per asfissia. Alla fine dell'estate 1941, con questo metodo, sono stati eliminati almeno 70.000 disabili. Con la storia del campo di Auschwitz proseguiamo dopo la viabilità. Mix 24, i gialli della storia. Bentornati all'ascolto di Mix 24, stiamo raccontando la storia di Auschwitz. È il 1941 e nonostante il campo sia crudele e inumano, non sono ancora cominciate le eliminazioni di massa che lo renderanno famoso. Himmler vuole estendere il programma di eutanasia anche ai campi di concentramento. A questo scopo, in estate, invia un'unità speciale proprio ad Auschwitz. Due settimane dopo il trasferimento dei malati da Auschwitz, Heinrich Himmler si reca al fronte in Unione Sovietica. Venerdì 15 agosto 1941. Al mattino Himmler è alle porte di Minsk, dove assiste all'esecuzione di alcuni ebrei e di presunti partigiani. Dopo la fucilazione, il generale delle SS Erich von den Bach-Zelewski informa Himmler che ci sono dei problemi con le SS incaricate dell'esecuzione. Reichsführer, questi erano solo 100. Cosa intende dire? Li guardi negli occhi, soldati di questo plotone. Uomini del genere sono spacciati per tutta la vita. Che soldati creiamo noi con questo sistema? Dei malati di mente o dei bruti? Bach-Zelewski sa che nell'estate 1941, nei territori occupati dall'Unione Sovietica, i tedeschi e i loro collaboratori uccidono a sangue freddo e a distanza ravvicinata anche donne e bambini. Himmler si rende conto che occorre trovare un modo migliore. Migliore per gli assassini, non per le vittime. Anche i dirigenti di Auschwitz stanno rinnovando i loro metodi di sterminio. Höss è lontano dal campo in missione. Durante la sua assenza, nell'agosto 1941, il suo vice, Karl Fritsch, ha un'idea radicale che avrà importanti conseguenze nella storia di Auschwitz. Nel campo i prigionieri sovietici inabili al lavoro vengono ancora eliminati con la fucilazione. Fritsch pensa che una soluzione alternativa potrebbe essere a portata di mano. Ad Auschwitz, gli abiti infestati da pidocchi ed altri parassiti vengono trattati con acido cianidrico cristallizzato, prodotto commercialmente con il nome di Zyklon B. Una volta aperto il contenitore sigillato, al contatto con l'aria i cristalli di Zyklon B sprigionano un gas letale. Per condurre il primo esperimento con lo Zyklon B, Fritsch sceglie il blocco 11 di Auschwitz. Io avevo paura anche a camminare davanti al blocco 11. Avevo proprio una gran paura. Anche se era chiuso a chiave, avevo paura lo stesso a passarci davanti. A volte capitava di passare per quel viale ed ero terrorizzato. Il blocco 11 significava morte. In un giorno d'estate del 1941, tra la fine d'agosto e i primi di settembre, Fritsch ordina di preparare il blocco 11 per l'uso dello Zyklon B. Porte e finestre vengono sigillate. La nostra attenzione fu attratta, molti miei compagni lo notarono, da uomini delle SS che giravano con le maschere antigas. Le finestre del bunker erano state coperte dai sacchi di sabbia e alcuni prigionieri di guerra sovietici erano stati radunati all'interno del bunker, nelle celle dello scantinato. Il giorno dopo notammo che c'era un gran movimento di SS. Tra loro, più di tutti, Palice, che si agitava come un matto. Doveva essere successo qualcosa. Infatti, si venne a sapere che il gas non aveva funzionato a dovere e che molti di quei prigionieri erano ancora vivi. Aumentarono perciò il dosaggio del gas, ovvero aggiunsero altri cristalli e portarono a termine il lavoro. Al suo rientro al campo, Huss viene informato dell'esperimento. Quando tornai, Fritsch mi mise al corrente di come aveva usato il gas. E poi lo usò di nuovo per eliminare il contingente successivo di prigionieri di guerra russi. Devo confessare che quell'esecuzione con i gas ebbe un effetto calmante su di me. Le fucilazioni mi avevano sempre inorridito. Mi sollevava sapere che potevamo risparmiarci tutti quei bagni di sangue. Ma il comandante di Auschwitz si sbaglia. Di lì a poco quel campo diventerà il teatro di uno sterminio di dimensioni inimmaginabili. Nell'ottobre del 1941 ad Auschwitz si lavora a nuovi progetti di espansione, in particolare a un nuovo campo da costruire ad appena 2,5 chilometri dal lager già esistente, in una località che i tedeschi chiamano Birkenau. Il nuovo campo avrà le dimensioni di una piccola città. Sarà in grado di accogliere 100.000 prigionieri. Alcune ricerche condotte negli anni 90 sulla base dei progetti originari indicano che questo campo è stato concepito fin dall'inizio in modo tale che gli internati vivessero in condizioni spaventose. La sofferenza è pianificata, già in fase di ideazione. Nei progetti originari per il nuovo campo di Auschwitz, nello stesso spazio, saranno stipati 9 internati, 550 per ogni baracca. Niente acqua corrente né pavimento vero e proprio. Stipare così tante persone in ogni alloggio vuol dire anche creare le condizioni ideali per la diffusione delle malattie. Ma una volta ultimati tutti i calcoli, appare evidente che nemmeno stipare all'inverosimile i nuovi internati sarà sufficiente a soddisfare le esigenze dei nazisti. Le SS progettano edifici che servono a distruggere le persone più che ad alloggiarle. Il piano di sterminio sistematico e generalizzato viene definito il 20 gennaio 1942 nel corso di una riunione sulle sponde del Wannsee, un lago alle porte di Berlino. La riunione è stata convocata per coordinare il genocidio degli ebrei, la cosiddetta soluzione finale. Lo Sturmbannführer Lange ha maturato in questo campo una vasta esperienza di applicazioni pratiche. Gli ebrei da noi all'estero. I diversi funzionari amministrativi e del partito presenti vengono subito informati che l'operazione sarà sotto l'esclusivo controllo delle SS. La riunione di Wannsee, presieduta da Reinhard Heydrich delle SS e verbalizzata parola per parola da Adolf Eichmann, formalizza una dichiarazione di principio fondamentale. Tutti gli ebrei soggetti alla giurisdizione nazista devono morire. Non solo attraverso il lavoro forzato. Dopo la guerra, in attesa del processo, Rudolf Höss descriverà la procedura con cui, in quella primavera 1942, gli internati venivano uccisi nei casolari riadattati. Era della massima importanza che tutta l'operazione dell'arrivo e della svestizione avvenisse in un'atmosfera quanto più possibile calma. I bambini piccoli, per lo più, piangevano perché non abituati ad essere spogliati in quel modo. Ma bastava che le loro madri li consolassero un po', che si calmavano e si avviavano alle camere a gas, giocando o scherzando tra loro con in mano un giocattolo. Centinaia di uomini e donne nel pieno della vita si sono avviati ignari verso la morte nelle camere a gas, sotto gli alberi fioriti del frutteto. Questa immagine di morte immersa nella vita mi è rimasta impressa indelebilmente. Io li consideravo nemici del nostro popolo. Le motivazioni del nostro programma di sterminio mi apparivano giuste. Con la storia di Auschwitz riprendiamo dopo la pubblicità.